24 mattino estate con Irene Zerbini. E a tutti voi che state rientrando, perché molti lo stanno facendo proprio questa mattina, lunedì 23 agosto, per quelli che hanno voluto rimanere in villeggiatura fino all'ultimo minuto, le strade sono con traffico sostenuto ma non problematico, queste le ultime che ci arrivano. Intanto buongiorno ancora una volta da Irene Zerbini. Nel corso di 24 mattino parleremo di inglese, non in inglese, parleremo di inglese proprio così, perché questo sarà l'oggetto del nostro sondaggio della mattinata. Le madri benestanti newyorkesi stanno cercando babysitter straniere. Gli italiani cosa fanno? Cercano tate inglesi. Le università anche in Italia offrono corsi in lingua inglese, nella scuola dell'obbligo si potenzia l'insegnamento della lingua inglese. Contemporaneamente le lingue degli immigrati vengono invece considerate d'intralcio all'apprendimento dell'italiano, mentre il bilinguismo del bambino anglofono è considerato una ricchezza. E quindi vorremmo sapere da voi, la seconda lingua è un rischio per l'italiano? www.radio24.it per votare, poi ce ne occuperemo a bianco o nero. Avremo incontrato a quel punto anche un bilingue anglofono, il corrispondente del Wall Street Journal, il Washington Post, il New York Times, si chiama Aaron Mains, sarà il nostro ospite oggi alle 8:15 nell'angolo Visti dagli altri, dove incontriamo coloro che raccontano l'Italia all'estero. Prima però in Italia stiamo grazie al volenteroso comandante della Polizia Locale di Monza. Buongiorno, benvenuto a Silvio Scotti. Buongiorno e bentrovati. E Silvio Scotti è anche l'esperto del Sole 24 Ore sull'interpretazione e su tutte le problematiche legate all'applicazione del codice della strada. È stato un rientro che ha fatto tirare sospiri di sollievo a molti dei poliziotti concentrati sulle strade italiane, Scotti. E sembra che, nonostante problemi che naturalmente si sono registrati per il traffico sostenuto, è andata meglio di quanto si pensava. Sasse, sorpreso? No, perché in realtà con le campagne di stampa, con un orientamento culturale diverso, si sta così facendo strada l'idea che rispettare il codice significa aumentare la propria e l'altrui sicurezza e non essere soggetti a dei vincoli stupidi come si può comunemente pensare. C'era la sensazione invece prima che sulle strade italiane in qualche modo si potesse fare un po' quello che si voleva e sembra quindi che gli italiani stiano maturando, stiano diventando europei in questo senso, c'è maggiore responsabilità secondo le statistiche che vi arrivano? Sì, io credo di sì, credo anche che proprio si stia facendo strada una cultura della sicurezza stradale e su questo anche l'informazione abbia avuto un peso notevole, riportando i fatti di cronaca che purtroppo funestano non soltanto le vacanze ma tutte le nostre giornate quotidiane. Sono state modificate recentemente delle parti sostanziose delle nostre discipline stradali, diciamo oltre 80 articoli del codice della strada, in tempo per questi massicci spostamenti degli italiani in tempo di vacanze. E quali sono, secondo lei, le norme più importanti da prendere, le grandi novità? Dunque, le grandi novità credo che siano l'estensione del divieto di bere assoluto, cioè quindi per quei conducenti che io chiamo a tasso alcolemico zero, e cioè i neopatentati e i conducenti professionali e coloro che hanno preso la patente da meno di 3 anni, quindi queste persone non possono neanche avvicinarsi all'alcol prima di mettersi alla guida. Poi direi che una serie di normative che sono state introdotte hanno riallineato il codice sotto il profilo burocratico, ma soprattutto c'è stata una stretta per quanto riguarda i sinistri stradali con colpa, perché una delle novità è proprio questa, si è tornato all'origine del codice, cioè in caso di incidenti stradali con feriti, laddove vi sia un'evidente responsabilità e venga evidenziata una situazione di irregolarità rispetto alle norme della circolazione stradale, non solo viene contestato il verbale, ma viene ritirata immediatamente la patente al responsabile e inviata alla prefettura per la successiva sospensione. Perché dice si è tornati a quelle che erano le norme e la filosofia del codice della strada di responsabilità di una volta. Come mai ci si era allontanati da questo tipo di procedura? Ecco, innanzitutto cominciamo a dire che questa era più o meno, anche se è stata modificata in alcuni dettagli, la disciplina del nuovo codice della strada quando è entrato in vigore il 1 gennaio 1993. Successivamente, sotto il profilo amministrativo, probabilmente perché la macchina burocratica non era pronta e visto l'elevatissimo numero di incidenti stradali conferiti, le patenti venivano ritirate con una frequenza addirittura allarmante che ingolfava i diversi uffici che poi dovevano provvedere alla gestione amministrativa di queste patenti. Allora, da questo punto di vista si è ritenuto di limitare l'applicazione di questa norma. Poi invece, con la nuova formulazione dell'articolo 223, si torna un po' all'origine e quindi si applica questa normativa, che è piuttosto severa, ma direi anche che possiede una sua finalità molto importante. Cioè quella di intervenire immediatamente su coloro i quali con comportamenti scorretti hanno proprio dato causa agli incidenti e vi sia anche una loro evidente responsabilità. E quindi c'è questo primo rientro con queste nuove norme, il nuovo codice. Ci sono novità che nel corso delle settimane, anche degli anni possiamo dire, perché è stato un iter molto sofferto, ha richiesto 2 anni questo cambiamento, sono state discusse a più riprese, poi mancano ancora provvedimenti e parecchi perché ci sia la piena attuazione delle novità di questa riforma. Però quelli che stanno guidando in questi giorni, in queste ore, qualche novità la incontrano anche se vengono fermati, verranno richieste loro cose che prima potevano anche essere così taciute. E tra le norme che invece non sono passate, non è passata la norma dell'obbligo del casco in bici fino a 14 anni. Perché, Silvio Scotti? Ecco, in realtà questa sembrava effettivamente una norma piuttosto importante, tant'è che vi sono già delle norme UNI, quindi delle norme europee che stabiliscono quali debbano essere le caratteristiche dei caschi da indossare durante la nostra biciclettata quotidiana. Era piuttosto importante cercare di tutelare ulteriormente i minori. La norma ad un certo punto è stata cassata senza che vi sia stata una spiegazione specifica, almeno per quanto riguarda i lavori parlamentari che ho potuto consultare. Fatto sta che credo che l'appuntamento sia soltanto rimandato, perché in realtà anche il ciclista deve essere adeguatamente protetto e soprattutto per coloro che ancora non hanno raggiunto i 14 anni. Rendiamoci conto che già di fatto i genitori tendono a imporre il casco per i loro figlioli quando vanno in bicicletta, quindi credo che sia un appuntamento solo rimandato. Per quel che riguarda invece le famiglie che stanno rientrando adesso, ci sono novità sulle minicar, ma sono pochi coloro che si sono fatti la vacanza in minicar. Invece la segnaletica, i cartelli luminosi che si incontrano per le strade, per capirci, quelli che ci dicono che stiamo correndo un po' troppo, sono diventati legittimi, perché in realtà sì, non lo erano. No, esattamente. Prima non erano previsti dal codice ed esisteva un parere cauto, però fondato, da parte del Ministero che indicava come questi cartelli non dovevano ritenersi in linea con la normativa. Finalmente questi cartelli, anche perché hanno una forte finalità preventiva, sono stati resi legittimi, possono essere quindi installati, ovviamente devono avere determinate caratteristiche che verranno rese note nelle prossime settimane, comunque hanno una loro legittimità. Sono fondamentali perché lampeggiando ci segnalano quando magari anche inavvertitamente stiamo superando, anche se di poco, il limite di velocità. Avremo poi delle altre novità sostanziose per quel che riguarda i semafori. Sì, senz'altro, anche per quanto riguarda i semafori. Ecco, io credo che questa sia una novità molto importante, perché sarà possibile, ovviamente si sta decreto, mettere i famosi contasecondi sui semafori che sono già stati sperimentati. Sono quegli apparecchi che ci dicono quanti secondi mancano perché il colore, per esempio il rosso, il giallo o il verde, cambi e si sposti sul colore successivo. Questo ha, ha due finalità. Innanzitutto dice al conducente effettivamente quanti secondi di tempo ha per attraversare l'incrocio. Cioè hai 4 secondi di giallo. Esatto. Non solo, ma rende anche trasparente il funzionamento del semaforo, quindi c'è un controllo. Laddove ci dovesse essere per esempio un giallo troppo breve, ecco che vi sarà direttamente il controllo dell'utenza che potrà segnalare questa incongruenza, perché ricordiamo che anche i semafori, ahimè, possono subire dei malfunzionamenti oppure essere tarati male fin dall'origine. E poi si introdurrà anche quel comportamento molto civile, purtroppo evitato in genere, di non buttarsi in mezzo al semaforo se non si è sicuri poi di poter passare quell'incrocio prima che si accenda il rosso, perché spesso gli intasamenti in città sono dovuti a questo calcolo sbagliato da parte di noi automobilisti. Per cui ecco, ci si ritrova in mezzo all'incrocio, si bloccano le altre corsie e cominciano anche le proteste piuttosto colorite da parte di chi si trova davanti un'auto. Che... Si spera che con questo conteggio alla rovescia uno che vede un giallo che durerà ancora 2 secondi non tenti l'avventura dell'attraversamento dell'incrocio. Questo è uno degli scopi di questa novità. Certamente, ecco, io vorrei però ricordare che questa norma è in vigore da tantissimo e che noi equivochiamo sul significato dei colori. Sembra così una cosa piuttosto banale, ma in realtà il verde noi possiamo passare solo se siamo ragionevolmente sicuri di poter sgombrare l'incrocio prima che si accenda la luce rossa. Il giallo invece ci dice di fermarsi a meno che non si sia già cominciato l'attraversamento dell'incrocio o non ci si possa fermare in condizioni di sicurezza. Noi invece notiamo che all'accensione del giallo normalmente parte l'accelerata del veicolo perché vuole attraversare la pista. Chiaro, chiaro, si vede mancata la pubblicità su questa norma. Scotti, grazie mille per queste delucidazioni. Naturalmente non mancano le polemiche legate al mancato avvio di controlli più sostanziosi e di un fondo per i controlli. Intanto grazie, buona giornata. 30 minuti dopo le 7 ci ritroviamo tra pochissimo con la rassegna stampa. 32 minuti dopo le 7, ben ritrovati a tutti voi e ben ritrovati a una voce storica di Radio 24, una voce abbronzata, si può dire? Non per età, spero. Storica. No, ma figurati, i tuoi 18 anni vengono invidiati, esatto, da tutti, più che doppi, anche grazie, dalle sedicenni come me. Buongiorno Irene. Buongiorno a Deborah Rosciani per la rassegna stampa. Eh sì, questa oggi settimana tocca a me. Molto volentieri. In primo piano? In primo piano naturalmente la politica, che campeggia su tutti i quotidiani, ma mi ha colpito molto questo rapporto lanciato da Save the Children sulle 50.000 persone che sarebbero state vittime di tratta e sfruttamento in Italia. Ci sono quasi 1.000 minorenni. La rassegna stampa dunque, la lettura di tutti i quotidiani italiani con Deborah Rosciani. Noi ci ritroviamo con 24 Mattino per andare a incontrare il corrispondente straniero che ci racconterà l'Italia dal suo punto di vista. Più tardi. In primo piano. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Allora, lo avete sentito poco fa, sarò io questa settimana ad intrattenervi con la rassegna stampa del mattino, quindi daremo un'occhiata ai titoli, ai principali temi su tutti i quotidiani, naturalmente come anticipavamo poco fa con Irene Zerbini. E ancora la politica, lo scontro fra Berlusconi e i Finiani ad avere, come dire, a guadagnarsi gran parte dei commenti su tutte le prime pagine dei principali quotidiani. C'è anche molta cronaca, c'è l'appello del Papa ad accogliere tutti dopo l'iniziativa francese del presidente Sarkozy di espellere i Rom. Ci sono tante altre cose da raccontarvi, allora direi di cominciare subito a curiosare sulle prime pagine dei principali quotidiani del nostro paese. Cominciamo con il Corriere della Sera. Berlusconi, prepararsi al voto. Silvio Berlusconi ha chiamato i promotori della libertà alla mobilitazione generale in caso di rottura definitiva con Fini. In un messaggio audio afferma: dobbiamo essere pronti anche ad elezioni entro breve tempo e alle aperture all'UDC, anche questo ieri ha scatenato grande dibattito. Bossi ha replicato: mai con Casini. C'è l'appello del Papa, questo è un tema che praticamente si guadagna, come vi dicevo, le prime pagine di quasi tutti i giornali, anche con diversi commenti. L'appello del Papa da cogliere tutti: c'è stato un messaggio mirato ieri all'Angelus di Benedetto XVI al presidente francese Nicolas Sarkozy per l'espulsione dei Rom. Poche parole pronunciate ieri proprio in francese. I testi liturgici di oggi ci ripetono che tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza, e questo anche è un invito a saper accogliere le legittime diversità umane. Su questo interviene con un editoriale Angelo Panebianco intitolato I principi e la realtà. È un noto effetto distorcente dei meccanismi della rappresentanza il fatto che spesso i vertici di organizzazioni ed istituzioni siano più condizionati ed influenzati dall'attivismo delle minoranze militanti ed organizzate che dagli orientamenti prevalenti nelle maggioranze disorganizzate. Qualcosa del genere, dice Panebianco, sembra capitare sui temi dell'immigrazione anche alla Chiesa Cattolica. Se il Papa non può non invocare, come ha fatto ieri Benedetto XVI, il principio della fraternità fra gli uomini e il dovere di accoglienza nei confronti delle diversità, i problemi sorgono quando gli uomini di chiesa intervengono nel merito e nei dettagli delle politiche dei singoli governi in materia di immigrazione. Un altro paio di fatti che vengono segnalati in prima pagina sul Corriere della Sera: c'è questo episodio di cronaca che si è concretizzato, che si è verificato a Milano, dove i vigili urbani l'altra sera, dopo aver bloccato un pestaggio nel quartiere periferico del Corvetto e arrestato uno dei protagonisti, sono stati aggrediti l'arrestato è stato liberato. Questo è successo perché nel comune si sta sperimentando in questa zona l'ordinanza coprifuoco per bar, kebab e locali notturni, però appunto queste persone hanno accerchiato e picchiato i vigili proprio per liberare questo arrestato, una banda che tiene in scacco un quartiere. Un'altra notizia che vi segnalo sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera: salta l'accordo di separazione fra Veronica Lario e Silvio Berlusconi. L'intesa consensuale faticosamente raggiunta a maggio prevedeva un assegno mensile di 300.000 euro e l'attribuzione in usufrutto a vita della villa di Macherio alla seconda moglie del premier. Ora tornerebbe tutto in discussione. Veronica infatti non avrà più la disponibilità della residenza alle porte di Milano, dove è vissuta con i tre figli Barbara, Eleonora e Luigi, e la vicenda finirà davanti al giudice senza altri tentativi di conciliazione. Un altro fatto che viene naturalmente largamente commentato da tutti i giornali e da tutti i quotidiani italiani oggi è la vicenda del reintegro allo stabilimento di Melfi della Fiat dei tre operai che oggi dovrebbero ritornare al lavoro ma sono stati respinti dall'azienda, e adesso vi do qualche indicazione su quali commenti compaiono su questo tema. Adesso andiamo alla prima pagina della Repubblica, ancora su Berlusconi. Prepariamoci al voto, nuovo attacco del premier al Colle e ai finiani. Bossi: se entra Casini Tremonti lascia. Di Pietro e Vendola: no all'alleanza proposta da Franceschini. I commenti principali sulle vicende politiche sono di Adriano Prosperi: il verbo dell'autocrate, no a formalismi costituzionali decide il popolo, questo è il verbo dell'autocrate populista sordo ad ogni richiamo alla correttezza delle forme. Nella cronaca avvelenata di questo agosto, sullo sfondo dello sfaldamento del conglomerato del Popolo della Libertà, si punta ad un regolamento di conti elettorali in barba alle emergenze economiche e sociali che il prossimo autunno fa ragionevolmente temere. E poi il Vodiamanti: perché il Cavaliere deve temere le urne, non è una novità. Il protagonismo di Bossi, esibito anche in passato quando la Lega contava molto meno, tuttavia Bossi, e di riflesso la Lega, raramente apparso così determinato. Oggi infatti è lui a dettare i tempi e i temi della crisi senza preoccuparsi di nulla e nessuno. Nei confronti di Fini e dei suoi amici bisogna cacciarli. Fini è invidioso e rancoroso, il dialogo è tempo sprecato, meglio andare a votare subito. Allora Fiat, la questione del reintegro degli operai di Melfi. Il quotidiano Repubblica propone un'intervista al leader della CGIL Guglielmo Epifani, che accusa l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne per la gestione dei diritti dei lavoratori, e attacca l'esecutivo. Se tra noi, CISL e UIL, c'è il gelo, è anche per colpa del governo, dice Epifani. Oggi intanto torneranno in fabbrica, nello stabilimento di Melfi, 3 operai, prima licenziati dalla Fiat, poi reintegrati dal giudice del lavoro, ma come avete anche sentito nel corso dei nostri giornali radio, i vertici aziendali insistono, non li faremo entrare. Poi vi leggerò anche un commento su questo di Pietro Ichino e di altri sindacalisti. Sulle questioni peraltro politiche all'interno delle pagine di Repubblica troviamo anche un'intervista al governatore del Veneto Luca Zaia. Andare al voto è inevitabile e il PDL pagherà, dice Zaia, gli scandali. Andiamo alla prima pagina della Stampa, sempre su Berlusconi. Prepariamoci a votare, no a formalismi costituzionali. Il PD, il Partito Democratico, parla di un atto eversivo. Le interviste che propone su questi temi la Stampa a Gasparri: se fanno un nuovo partito restano solo le urne. E poi a Cota: il Bersani mi aveva rassicurato, però poi mi hanno attaccato. Chiamparino: ok, venga la festa del Carroccio. C'è una bella storia che la Stampa mette in primo piano, a centro pagina, con una bella foto di questo uomo francese. Girare il suo primato ha percorso in 307 giorni 22.582 chilometri. Tutto il mondo in 12 anni, l'uomo che ha corso per 5 continenti, nessuno lo ha soprannominato in questa maniera, lo faccio io stamattina, un po' un Forrest Gump, riesce a percorrere 73 chilometri al giorno. La prima pagina del Giornale. Allora, c'è intanto un editoriale del direttore Vittorio Feltri. Per il Cavaliere arriverà il soccorso cattolico, vedremo poi se riesco a leggervi qualche passaggio. E poi naturalmente in primo piano ancora le foto di Elisabetta Tulliani, la compagna di Gianfranco Fini, con il fratello Giancarlo Gaucci Junior. C'è un'intervista al figlio di Luciano Gaucci: ecco gli affari dei Tulliani, non erano neanche benestanti, sono diventati milionari a nostre spese. C'è poi un'intervista a tutta pagina proposta dal Giornale al ministro Brunetta. Fini dice: non può presiedere la Camera, non è più un garante, vorrei che sentisse l'esigenza morale, oltre che istituzionale, della sua incompatibilità. Il governo ha fatto bene, assurdo non continuare, ma sulla giustizia non ci possono essere distinguo. Rapidamente qualche passaggio dell'editoriale di Vittorio Feltri: si va a votare o no? Questo è il dilemma e non lo si può sciogliere ora, perché i giochi non sono fatti, anzi sono in pieno svolgimento e non si sa come si concluderanno. Il PDL ha fissato sulla carta 5 punti: federalismo, giustizia, fisco, mezzogiorno e sicurezza, e su questi alla riapertura del Parlamento il governo chiederà la fiducia. Berlusconi la otterrà, perché i finiani di Futuro e Libertà non sono contrari ai titoli, semmai lo saranno sui contenuti. Si vedrà man mano che le scatole vuote delle riforme si riempiranno fino a che punto il nuovo gruppo è disposto a seguire il Premier. Dell'intervista di Brunetta vi ho dato le anticipazioni più importanti, quindi la scavalchiamo abbastanza rapidamente. Andiamo anche però all'altra iniziativa politica molto importante delle forze di opposizione, cioè della mobilitazione organizzata dal Partito Democratico, la famosa mobilitazione porta a porta, che dovrebbe partire tra settembre e ottobre con l'obiettivo di raggiungere il più alto numero di italiani casa per casa. Sul Messaggero: Bersani, farò il porta a porta parlando di lavoro e Costituzione. Il segretario del PD comincia da giovedì a Reggio Emilia, un tour nelle feste di partito. A Torino sabato 28 inaugurerà la festa nazionale con un discorso ai volontari. Anche Bersani dice: tenersi pronti al voto, lanceremo un appello a tutte le forze. Prima di andare in pausa, forse possiamo riuscire a fare anche una parte della prima pagina del Sole 24 Ore, che, come sapete, quella del lunedì è una edizione per così dire fredda, e allora si dedica al tema dei controlli fiscali, dell'evasione fiscale. Tornano a crescere i reati tributari, questo è il tema su cui punta il Sole 24 Ore di oggi. Nel primo semestre sono aumentati del 50% i fascicoli aperti nelle procure rispetto a 2 anni fa. A Milano sono raddoppiate le azioni penali, Lazio in testa per imposte accertate. C'è anche l'altro intervento sulla quale si è intrattenuta con il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti, la nostra Irene Zerbini, cioè le novità sul codice della strada, il calendario dei provvedimenti, multe, targhe, patenti, 47 decreti in cantiere sulla via della riforma. E poi semplificazione, enti inutili al capolinea, il taglio dei primi 24 fa risparmiare allo Stato 4 milioni di euro, sono i primi enti inutili soppressi dall'ultima manovra. Una curiosità dalla prima pagina sempre del Sole 24 Ore: avete presente la famosa profezia Maya secondo la quale entro breve ci sarà la fine del mondo? E allora c'è chi progetta rifugi di lusso anche per 200 persone. Mi faccio il bunker per sopravvivere a questa scadenza del 2012. C'è questo pezzo di Chiara Bussi, che è andata a caccia di curiose iniziative imprenditoriali in questo settore, di alcune aziende che stanno proprio puntando su questo business, addirittura la costruzione di impianti di sicurezza, bunker dei desideri anche per i privati. Una soluzione chiavi in mano, per esempio realizzato dall'azienda di Pontedera Matex Security Project, una soluzione chiavi in mano per sopravvivere alla più grande sventura di tutti i tempi. Il posto riservato non è per tutti, una famiglia di 4 persone deve prepararsi a spendere almeno 140.000 euro. In primo piano. E ritorniamo alla rassegna stampa. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Un'occhiata alla prima pagina del Messaggero. Berlusconi, maggioranza unita o voto. Il premier rilancia l'ultimatum a Fini, ma frena Bossi. La gente ci chiede governabilità. Casini, noi fedeli ai nostri elettori, mai al governo con la Lega. Il Messaggero in primo piano pone anche altre due notizie. Piazza Navona, fanno il bagno nella fontana, multati 2 turisti. E poi università, test di sbarramento per un corso di laurea su 2. L'università diventa selettiva quest'anno, ci sono test d'ingresso per un corso di laurea su 2. Tra numero chiuso e quiz d'orientamento, l'accesso alle facoltà diventa più difficile. Gli studenti che non riescono a superare la prova attitudinale devono recuperare, come il caso di Ingegneria La Sapienza, altrimenti non possono sostenere gli esami. Tra l'altro, sui temi dei costi dell'università interviene con una lettera alla stampa anche il ministro Gelmini. Il Secolo XIX, la prima pagina dedicata ancora al tema politico. Berlusconi pronti al voto, PD dice eversivo, niente formalismi sulla carta, nuovi scandali contro i finiani. Barbareschi sotto inchiesta per un presunto abuso edilizio a Filicudi, avverte, sembra che sia in corso il tiro al finiano. C'è poi il racconto di una storia di una possibile stangata in arrivo, riguarda Genova, ma per la verità per molte associazioni dei consumatori potrebbe riguardare tutto il paese. A settembre la bolletta della TIA sarà più cara del 3%, arrivano gli aumenti di asili e ristoranti, ristorazione scolastica, scusate, anche se calcolare quanto e per chi non è ancora possibile, ma è poi certo l'aumento della tassa sulla spazzatura, più di 3 punti percentuali per effetto di una sentenza che ha obbligato a togliere l'IVA da quella che, nonostante il nome, tornerà ad essere una normalissima tassa. Andiamo adesso al caso al quale dedicano naturalmente ampi ed articolati approfondimenti quasi tutti i giornali, del reintegro degli operai Fiat allo stabilimento di Melfi. La Repubblica, l'ora della verità è fissata oggi alle 13.30 nella piana di San Nicola, dove sorge lo stabilimento di Melfi. Si capirà solo in quel momento se davvero la Fiat intende bloccare l'ingresso in fabbrica ai 3 operai licenziati a luglio e reintegrati con sentenza del giudice all'inizio di agosto. Sabato l'azienda aveva comunicato con un telegramma inviato ai 3 che sarebbero stati retribuiti ma che non li avrebbe fatti rientrare in fabbrica. Non accettiamo elemosine, è uno scandalo che veniamo pagati senza lavorare. Vi dicevo, Repubblica propone un'intervista al leader della CGIL, Epifani, che dice: così Marchionne danneggia l'azienda, noi siamo pronti a ricucire, ma sui diritti non cediamo, il nostro gelo con CISL UIL è frutto anche di una responsabilità del governo. L'Italia, denuncia ancora Guglielmo Epifani, arriva al momento della ripresa economica come ultima della classe. L'Unità parla in prima pagina di diritti rovesciati, di un paese al contrario. Siamo ancora, si chiede il quotidiano guidato da Concita Gregorio, una Repubblica fondata sul lavoro, in fabbrica con i carabinieri, i tre operai reintegrati tornano oggi a Melfi, se non ci faranno entrare chiameremo la forza pubblica. Maurizio Landini, leader della FIOM, sui diritti non si può cedere, siamo pronti ad una lunga battaglia legale. C'è l'editoriale del vice direttore dell'Unità, Rinaldo Gianola, che appunto, tra tutti i problemi che gli italiani si troveranno ad affrontare quest'anno, molti sono, come dire, soliti, i soliti guai. L'unica vera novità, dice Gianola, di questo paese senza bussola è che Sergio Marchionne assomiglia sempre di più a Silvio Berlusconi. Anche l'amministratore delegato della Fiat, alla pari del presidente del Consiglio, desidera che le sentenze della magistratura non intralcino la sua azione manageriale, la sua politica di gestione e controllo delle fabbriche. E poi il commento del giuslavorista Pietro Ichino sulle pagine del Corriere della Sera: nella vertenza esplosa in seno allo stabilimento lucano, l'azienda Fiat può forse avere ragione sul merito della questione, non si può affatto escludere che effettivamente i tre sindacalisti abbiano operato deliberatamente per ottenere il blocco dei carrelli automatici il 7 luglio, in modo da paralizzare l'attività dello stabilimento, ma la scelta del licenziamento ha l'effetto di radicalizzare lo scontro. Ora non si comprende, dice Ichino, davvero la necessità di un ulteriore inasprimento conseguente alla scelta di ottemperare in modo cavilloso all'ordine provvisorio del giudice. Ieri è iniziato a Rimini il meeting di Comunione e Liberazione, ovviamente tanti i leader politici presenti, tanti gli esponenti anche dell'economia del nostro paese, e c'è questo anche commento che ha fatto il principale banchiere italiano, Corrado Passera, numero uno del gruppo Intesa San Paolo, che ha parlato di una vera e propria indignazione di questa classe dirigente. A quanto pare la platea dei Ciellini ha gradito questo commento. Qualche notizia dall'estero, ci rimangono per la verità già pochi minuti. Teheran mostra il suo drone d'attacco all'indomani dell'accensione del reattore della prima centrale nucleare iraniana. Teheran segna un nuovo record nella corsa allo sviluppo agli armamenti. Ieri, in occasione della giornata nazionale dell'industria della difesa, il presidente Ahmadinejad ha illustrato l'ultima creatura dell'apparato bellico del regime, il drone Carrari, il primo totalmente prodotto e costruito sul territorio iraniano. Un velivolo senza pilota che rappresenta un vero salto di qualità. Oltre a unire le classiche capacità di ricognizione e spionaggio, il Carrar assolve anche il compito di bombardiere, dotato di 4 missili teleguidati e di 2 bombe da 115 kg. Altre notizie che arrivano dall'estero, vi segnalerei anche questa preoccupazione che viene sollevata da Repubblica sulle nuove piogge in Pakistan. Stanno aumentando gli sfollati, ma a quanto pare questa è un po' un'emergenza della quale non sempre ci occupiamo a sufficienza. Una seconda devastante ondata di monsoni si sta abbattendo in queste ore sul Pakistan, dove nelle ultime 3 settimane le alluvioni hanno provocato 1.500 morti e 20 milioni di senza tetto, e le nuove piogge sono destinate a peggiorare ulteriormente questa che ormai si sta caratterizzando come una vera e propria nuova emergenza umanitaria. Una banca per ricchi firmata da Tony Blair, l'ex premier britannico, si starebbe dando alla finanza, secondo quanto raccontano molti giornali quest'oggi. E poi questa notizia che avevo anticipato già con Irene Zerbini, non riusciamo a raccontare tanti altri fatti di cronaca, ma lo farà sicuramente il nostro radiogiornale. C'è questo rapporto che è stato divulgato dall'associazione Save the Children: sarebbero almeno 50.000 le persone che sono state vittime di tratta e sfruttamento in Italia e 986.000 erano minorenni. Sono cifre che indicano solo chi ha ottenuto protezione, ma il fenomeno generale è molto più vasto, impossibile da quantificare perché riguarda in gran parte le persone che vivono in Italia da clandestini, minorenni stranieri che arrivano senza genitori nelle mani di trafficanti, si lasciano alle spalle situazioni così tragiche da essere disposti a tutto pur di non tornare indietro e per pagare il viaggio sono costretti a prostituzione, lavoro nero, spaccio e elemosina. Allora, io direi che con la rassegna stampa questa mattina ho concluso. Irene è tornata qui accanto a me. Come procedi? Tornata davvero, ti abbiamo seguito fino in fondo, purtroppo con questo epilogo drammatico, quest'ultimo articolo che ci hai segnalato. Ci infastidiscono così tanto in metropolitana, come al solito, ai semafori, insomma, forse sono, come dire, commenti sempre molto banali, però poi queste ricerche e questi allarmi ci impongono una riflessione. Grazie a Deborah Rosciani, che ritroveremo domani mattina con la rassegna stampa alle 7:30 preciso. Io ritorno anche a Salva Danaio, guarda, mi faccio anche un po' di pubblicità alle 12. Alle 12 ti risentiamo, sì. E poi la lettura dei giornali ogni mattina fino a venerdì per questo impegno estivo, mentre nel palinsesto consueto, chiamiamolo così. Sì, ritorniamo a Salva Danaio. Peraltro, guarda, ne approfitto anche per segnalare un'altra pagina del Sole 24 Ore di questa mattina, che spiega molto bene quali sono tutti gli obblighi a cui bisogna ottemperare molto attentamente se si sta andando a rogitare per l'acquisto della nostra prima casa. La manovra correttiva dei conti pubblici recente ha portato molte novità che per qualcuno sono anche un po' difficili da comprendere, basta però a volte fare semplifica un salto. Semplifica o appesantisce? Un pochino appesantisce, però insomma il tema dell'evasione dal nero è molto importante, per cui dobbiamo solamente fare una chiacchierata magari aggiuntiva e preventiva a rogito con il nostro notaio, quindi ci pensa tutto lui. Noi qualche volta ci spaventiamo in via pregiudiziale, ma basta lasciare a volte affidarci alle mani di professionisti e quindi possiamo andare anche tranquilli. L'importante è che scegliamo la casa giusta, che la paghiamo bene. E poi, anche insomma, la tua, cioè si può scegliere anche quella di qualcun altro, naturalmente. Direi. Deborah, grazie, ci ritroviamo domani mattina e alle 12 con Salva Danaio. Alle 8:15 incontreremo il corrispondente, oggi colui che racconta l'Italia sul Wall Street Journal, il Washington Post e il New York Times. Alle 8:30 ci chiederemo: la seconda lingua è un rischio per l'italiano? Perché tutti vogliono imparare l'inglese e farlo imparare ai bambini fin dall'asilo, poi si considera invece la lingua degli immigrati come un intralcio all'apprendimento. Dove sta la verità? Votate al sondaggio di Bianco Nero sul sito www.radio24.it. È il punto di vista che fa la differenza quando si racconta qualcosa, soprattutto quando si è corrispondenti, si hanno occhi diversi, si ha la possibilità di vedere in maniera diversa il viaggio, la moda, il design, l'arte, la cucina. Quando si parla d'Italia, la gente, la politica sono tutti soggetti che passano sotto l'analisi, a volte impietosa, a volte benevola, dei corrispondenti. E questa è la rubrica delle 8:15 in cui li sentiamo, facciamo parlare loro per la loro esperienza di giornalisti, di scrittori, di osservatori e di persone. Do il mio benvenuto oggi a Aaron Mains. Buongiorno Aaron. Buongiorno. Aaron Mains è un giornalista che scrive per più testate, è americano, e i suoi articoli li potete leggere sul Wall Street Journal, sul Washington Post, sul New York Times. Ho dimenticato qualcosa, Aaron? Ma no, direi di no. Quando parli dell'Italia, devo dire che sai stupire, far sorridere, far riflettere. Ultimamente, Aaron, di che cosa ti sei occupato qui in Italia? L'ultimo articolo che scrissi mi pare che era su un cappellaio italiano basato a Milano, un artigiano di vecchia stampa. Le sue creazioni e anche le problematiche che affronta. E che tipo di problematiche ha un cappellaio? Non riesce a trovare un buon apprendista. Quindi, in un paese dilaniato dal problema della disoccupazione, tu ci segnali questo job, questo job opening e quindi questa possibilità di diventare apprendisti cappellai. E assolutamente sì. quali altri ritratti hai fatto dall'Italia? Beh, vari pezzi, ho scritto anche sul vino, su ricerca di vitigni autoctoni nel Val d'Aosta, piuttosto che alcuni pezzi un po' sul filo turistico, diciamo, paesi o luoghi da visitare, anche un po', diciamo, nel bacino mediterraneo, non solo nell'Italia, ma soprattutto nell'Italia. Ma quindi quando scrivi i tuoi pezzi ti concentri sui giornali italiani o ti chiedi cosa interesserà ai lettori americani? Ma mi chiedo anzitutto cosa interessa ai lettori americani, o meglio, me lo chiedono i miei redattori, quindi loro hanno delle idee ben chiare su ciò che vuole sentire un lettore americano. Spesso, purtroppo, questo è un... sono un po' le solite storie pizza e mandolino molto spesso, cioè l'Italia viene visto bene o male come un paese da visitare, non necessariamente da viverci, ma da godere in breve soste. Quindi spesso vogliono sentire, preferirebbero piuttosto che sentire una storia vera di politica o di problematiche che affronta il cittadino italiano, preferiscono sentire magari di un nuovo straordinario trattoria in Toscana, piuttosto che un incredibile vino della Maremma, piuttosto che un formaggio meraviglioso della Puglia. E questi tuoi capi, quelli che stanno là ancora negli Stati Uniti e al telefono o via email ti dicono di cosa scrivere. Ti è capitato di litigare per alcuni cliché che magari ti proponevano di rinforzare sull'Italia mentre tu volevi dare una lettura diversa? Ma litigare direi di no, anche perché da buon freelancer non mi conviene più di tanto, però sicuramente mi è capitato l'opposto, nel senso che aiuto magari una collega, un altro giornalista a capire meglio l'Italia e capire proprio queste sfumature, le parti della cultura che magari uno straniero altrimenti non riesce a capire bene. Un paio di settimane fa David Siegel, che scrisse appunto un articolo molto bello nel New York Times intitolato Is Italy Too Italian? Cioè, è l'Italia troppo italiano? Lui era venuto per scrivere questo pezzo, diciamo, economico in grosso modo sull'Italia, ma voleva proprio capire, proprio entrare dentro la società, cercare di capirlo dall'esterno, cosa che non è facile per nessuno sicuramente. E lui ha voluto sapere appunto molte cose, diciamo, intime dell'Italia. Per esempio non aveva idea lui della realtà spaccata, cioè il nord che è ben diverso dal sud, per dire, piuttosto che le problematiche connesse con le tasse, con il lavoro in nero, con le difficoltà dei gioventù di entrare, dei giovani di trovare lavoro con... E quindi tu hai fatto da cicerone, ma esatto. So che tu sei sposato una donna italiana, avere una famiglia in Italia con figli, quindi avere a che fare anche col sistema scolastico, ti ha naturalmente dato, credo, una chiave d'accesso in più rispetto a tanti colleghi. Ma sicuramente sì. Anche la lingua, secondo me, quello, tutto parte da quello. Se uno viene e manca l'italiano, ha bisogno di utilizzare il traduttore o parla magari male, mastica con problemi, allora è difficile entrare, mentre se hai la fortuna di averlo imparato bene, come nel mio caso, grazie sicuramente a mia moglie e anche a volte a mio figlio adesso che mi corregge, cambia molto. Poi sono abbastanza fortunato di essere sposato con una donna italiana. Una donna molto in gamba, molto intelligente, che mi aiuta. Ti sta ascoltando, vero Aaron? Ti sta ascoltando. No. ma potrebbe ascoltare, quindi bisogna essere prudenti. Ti sta italianizzando. Hai un figlio, quindi hai a che fare anche col sistema scolastico italiano. E cosa hai notato nella scuola di tuo figlio? Ma allora, nella scuola di mio figlio noto che hanno pochi materiali, che gli mancano proprio la materia prima spesso, per problemi economici, credo. Poi altre cose che noto, sicuramente c'è un'attenzione, un rapporto molto bello che si costruisce avendo un'unica insegnante per i primi anni dell'elementare. Da noi questo cambia dopo il primo elementare, quindi non c'è il stesso programma. Questo lo trovo molto bello. in grosso modo nelle due scuole ho notato sempre che gli europei imparano meglio i fatti, imparano meglio le teorie, imparano meglio in generale tutto ciò che viene, che è già stato stabilito o già stato scritto. E gli americani invece imparano meglio applicare la creatività, imparano sin dall'inizio un certo tipo di pragmatismo americano che serve molto, secondo me. Imparano a innovare, a come cambiare. Sì, infatti. Diciamo che in Europa, a mio avviso, è più importante che per il tuo insegnante è più importante che riesci a dirgli cosa hanno scritto gli altri, cosa hanno pensato gli altri, cosa è già stato stabilito prima di te. Per l'insegnante americano, invece, è più importante, ok, dimostrami ciò che tu puoi fare con ciò che hanno scritto prima di te. Non so se mi spiego bene, ma questo invoglia anche i giovani o i ragazzi o i bambini a mettersi in gioco. C'è una differenza anche caratteriale poi alla fine tra il bambino americano e il bambino europeo. Sì, oddio, bambini sono sempre bambini, ma secondo me qui c'è proprio una differenza di approccio. Magari il bambino americano è un po' più pronto a mettersi in gioco, un po' più pronto a provare qualcosa nuovo, un po' più pronto a cercare una soluzione sua per una problematica, piuttosto che attendere o aspettarsi che qualcuno lo risolva per lui o gli dica come bisogna risolvere. Da quanti anni tu vivi in Italia? Sono ormai una decina, credo andiamo per 11 o 12 se non sbaglio, non ho il conteggio preciso. Ma credi ci starai per sempre? Ma sì, io dico sempre ai miei amici che sono più italiano degli italiani ormai. Come noti la tua italianità che cresce come una pianta dentro di te? Beh, mi viene sottolineato dai miei parenti quando torno negli Stati Uniti. Ma confesso di avere un amore proprio per l'Italia, mi sento in molte cose italiano, dalle cose banali del tifare per una squadra di calcio o apprezzare un piatto di pasta piuttosto che un altro, a delle cose diciamo più subdole ma ancora più importante. Per esempio? Un approccio alla vita che consente tempo da, non direi da meditare, ma di apprezzare la vita, di gustarsela. Mentre in America noi lavoriamo troppo e mettiamo sopra, secondo me, spesso troppo enfasi sul soldo, sul lavorare, su fare a tutti i costi. E qual è un elemento invece americano che importeresti in Italia se tu potessi? Cambio generazionale, anzi. Secondo cosa che porterei sarebbe il cambio generazionale, cioè bisogna dare opportunità ai giovani di prendere in mano, per giovani dico anche i quarantenni, magari nella politica per dirne uno, ma prima ancora la prima cosa che importerei in Italia lo spalmerei ovunque come il prezzemolo, è il senso civico. Noti che manca. Più che altro la cosa che mi dà più fastidio è che l'Italia, un paese talmente bello e talmente ricca di possibilità, dal turismo al cibo, all'arte, al design, ma veramente andiamo avanti per tutto il giorno a denominarli, e molto spesso invece queste cose vengono trascurate proprio per il mancanza di senso civico, proprio per il senso di metto me e la mia famiglia avanti a tutto e me ne frega niente, butto la cicca di qua nel modo più banale e evito ogni tasso, non contribuisco minimamente alla società in modo diciamo più ampio, più complesso. Questo fa sì che l'Italia non cresce o perlomeno vive male. Tu sei riuscito a raccontare tutta l'Italia descrivendo un marciapiede. Cosa ci hai visto nei marciapiedi di Milano? Ma mi hanno sempre colpito il fatto che sono ad un angolo i marciapiedi a Milano, cioè sono diagonale, il che rende molto difficile camminare, e poi sono pieni di queste, per dire, trappole legate che mangiucchiano i tacchi delle donne che passano. Il fatto che siano fatti di asfalto che è magari facile da colare giù, almeno presumo che sia così per chi costruisce la marciapiede, ma è pessima d'estate, per due mesi ci si finisce proprio dentro, come le tar pits di Brea a Los Angeles. Insomma, i marciapiedi ti hanno spiegato il perché i milanesi, questa è la prima riga del tuo articolo, sono i cittadini più stressati del bel paese. Sì, ovviamente lo scrivevo anche un po', noi diciamo, col sorriso nell'angolo della bocca, ma è un piccolo esempio di, se vogliamo, di mancata attenzione civica. Il marciapiedi viene colato giù così come viene. Grazie mille ad Aaron Mains. Buona giornata e goditi le vacanze. Buona giornata a voi. Aaron Mains scrive per il Wall Street Journal, il Washington Post e il New York Times. L'abbiamo incontrato oggi nel nostro angolo Visti dagli altri, dove tutti i giorni ci confrontiamo con un corrispondente che vive in Italia e la vede naturalmente in maniera diversa da come la vivono gli italiani. Ben ritrovati da Irene Zerbini. Oggi ci chiederemo: la seconda lingua è un rischio per l'italiano? Le madri benestanti newyorkesi cercano babysitter straniere, gli italiani cercano tate inglesi, le università anche in Italia offrono corsi in lingua inglese, nella scuola dell'obbligo si potenzia l'insegnamento della lingua inglese. Contemporaneamente le lingue degli immigrati vengono invece considerate d'intralcio all'apprendimento. Il bilinguismo del bambino anglofono invece è una ricchezza. Insomma, la seconda lingua è un rischio o no? Per l'italiano votate sul sito www.radio24.it. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Da che parte state? Ci sono reazioni, sensazioni, così, voglie anche diverse quando si parla di bilinguismo. Se volete partecipare, dire la vostra, il numero di telefono è 800 24 00 24, oppure potete farlo inviando un messaggio SMS al 349 238 6666. E comincerei con Gabriele Pallotti, uno dei nostri ospiti. Buongiorno professore. Sì, buongiorno. È un professore di didattica delle lingue moderne alla Facoltà di Scienze della Formazione a Modena e Reggio Emilia, ma soprattutto è uno dei più noti studiosi del bilinguismo in Italia. Ha organizzato un convegno proprio sulla seconda lingua dall'1 al 4 settembre a Reggio Emilia. Quando si parla di seconda lingua, soprattutto a livello didattico, i genitori pensano inevitabilmente con un po' di desiderio all'inglese, vorrebbero che i loro figli fossero bilingui e per bilinguismo in genere pensano solo all'ambito anglofono. È vero o no, professor Pallotti? Sì, tendenzialmente sì, l'inglese oggi è una lingua di grande comunicazione, di grande prestigio, e quindi quando si immagina una seconda lingua oltre all'italiano e si pensa subito all'inglese, e con delle buone ragioni naturalmente, perché è una lingua utile, è una lingua che oggi serve per viaggiare, per comunicare, per informarsi, per poter studiare, e quindi indubbiamente si pensa all'inglese, ma ovviamente non solo in Italia, insomma sta diventando la lingua della comunicazione mondiale e quindi è una lingua di elezione. Ma rendere i bambini italiani bilingue si dovrebbe fare? È un bene? Dovremmo guardare a modelli come l'Olanda, la Germania, tanti altri paesi europei in cui esprimersi correttamente in inglese è già una realtà, già dai primi anni di vita, già quando si fanno le elementari si è raggiunto quell'obiettivo. Sì, sicuramente è un obiettivo valido, insomma, nel senso che è una lingua appunto utile, e prima la si impara, meglio la si apprende, meglio la si conosce. Quindi sicuramente l'obiettivo è valido e non bisogna dimenticare però che addirittura l'Unione Europea raccomanda il trilinguismo, cioè non soltanto, c'è un po' questo rischio che in tutto il mondo si parli soltanto l'inglese in pratica, che non ci siano altre lingue oltre alla lingua materna e all'inglese, e viene visto anche come un impoverimento, per cui ad esempio in Europa viene raccomandata una politica di trilinguismo, cioè tutti i cittadini europei dovrebbero conoscere bene tre lingue. E c'è uno studioso, Weinrich, che addirittura suggerisce di usare l'inglese non come seconda lingua, ma come terza lingua, cioè di avere oltre alla propria lingua materna una seconda lingua conosciuta molto bene, forse meno necessaria, meno pratica dell'inglese, e poi dice tanto l'inglese lo si impara comunque, proprio perché è talmente utile, e se uno comincia subito con l'inglese rischia di finire lì. Quindi addirittura rilancio, non solo il bilinguismo è una buona cosa, ma direi anche il trilinguismo. Ma danneggia le competenze in italiano essere bilingui o trilingui, come alcuni ancora temono? No, assolutamente no, ci sono studi di ogni genere, anche su programmi di immersione, no? Cioè dove i bambini fin da molto piccoli, ad esempio dalla scuola materna, da 3-4 anni vengono immersi per un numero anche abbastanza consistente di ore in una seconda lingua, e non sto parlando tanto degli immigrati che vengono a vivere qui, che ovviamente nella scuola qui vengono appunto immersi nell'italiano, ma anche di ragazzini, ad esempio italiani, che frequentano scuole bilingue italiano-inglese e così via. Hanno fatto questi studi in scuole tedesche o olandesi, dove i bambini erano appunto immersi per parecchie ore alla settimana nell'inglese, le loro competenze nella L1, quindi nel tedesco, nell'olandese, erano assolutamente indistinguibili, a volte anche migliori di chi faceva soltanto tedesco o olandese. Esperimenti di questo tipo si contano a decine, un po' ovunque. Ne citiamo uno semplice, anche sintetico. È stato chiesto a 3 gruppi di studenti monolingui inglesi. Il secondo gruppo era bilingue inglese-spagnolo e il terzo bilingue inglese-mandarino. Si sono presi questi 3 gruppi e si è chiesto a questi bambini di memorizzare vocaboli in un'altra lingua, una quarta inventata. Non aveva alcuna relazione né con l'inglese né con il mandarino. Ebbene, i bilingui di entrambi i gruppi erano in grado di ricordare il doppio delle parole dei monolingui. Cioè, e anche nella lingua madre i bilingui sarebbero in grado di apprendere e ricordare un maggior numero di parole. Avere questi schemi, praticamente questa capacità di conoscere già più di una lingua, poi agevolerebbe le competenze nell'apprendimento anche di terze, quarte lingue. Diamo subito la parola a voi che vorreste porre le vostre domande agli esperti che oggi saranno nostri ospiti. 800 24 00 24. Buongiorno a questa. Santino. Buongiorno. Buongiorno, dica. Ma la mia opinione è che il bilinguismo non solo è necessario, ma assolutamente indispensabile. Prevedo che entro 20-25 anni al mondo si parlino solo 3 lingue, che sono inglese, spagnolo e cinese, e tutte le altre siano dialetti. Quindi abituiamo subito i nostri figli, i nostri nipoti a questo fenomeno. Una prospettiva decisamente povera rispetto al panorama che abbiamo oggi, e però è un timore alimentato dalla quantità, intanto grazie a Costantino, di lingue che ogni anno si perdono. Buongiorno a Michele Gazzola, assistente ricercatore appunto di economia linguistica all'Università di Ginevra. Se fosse vero, se tendiamo sempre di più a parlare solo inglese, presto cinese e tutto il resto confinato così in una nicchia quasi di lingua di serie B, dobbiamo semplicemente rassegnarci o c'è qualcosa che i governi soprattutto possono fare per evitare questo impoverimento, Gazzola? Sì, buongiorno a lei, buongiorno professor Pallotti e a tutti gli ascoltatori. Mi sembra uno scenario, quello descritto dall'ascoltatore, un po' apocalittico. Io non credo che tra 20-25 anni si arriverà a questi livelli. L'argomento però rischi ci sono, eh? I rischi ci sono perché ci sono delle dinamiche linguistiche in corso, le quali possono essere in parte frenate o contrastate dalle politiche linguistiche, cioè dagli interventi tipicamente pubblici nell'ambito delle lingue, in particolare l'insegnamento, oppure possono essere queste dinamiche anche favorite. Quello che io credo è che non dobbiamo, secondo me, dimenticarci che l'insegnamento delle lingue straniere, io sono d'accordissimo con il professor Pallotti che è necessario insegnarne più di una, due, anche tre, non deve essere slegato ovviamente da una riflessione più ampia sui rapporti tra lingua e società, perché cioè se noi si tende, non credo che sia vero, ma immaginiamo che sia vero, se si tende verso un'egemonia sempre più vasta di una lingua sulle altre, questo ha degli importanti risvolti. In primo luogo c'è una questione di fondo che ha a che vedere con quello che si chiama spesso la giustizia linguistica. Questo significa quali sono le conseguenze sulla distribuzione dei costi e benefici degli investimenti nelle lingue straniere in Europa e nel mondo. Non dimentichiamoci, ad esempio, casi concreti, dal 2004 nel Regno Unito l'insegnamento delle lingue straniere non è più obbligatorio dai 14 anni in su. Pensate che risparmio per loro. È un risparmio immenso, non solo, ma rimanendo nel contesto europeo nel Regno Unito, per i britannici e gli irlandesi, non solo loro non insegnando più le lingue straniere hanno dei grossi risparmi che poi investono in altre cose, per esempio ricerca, in fisica, in chimica, eccetera, ma non hanno un grandissimo mercato di insegnamento dei corsi di lingua, insegnamento a distanza, esportano insegnanti, vendite di libri. Immagini, Gordon Brown, l'ex primo ministro britannico, aveva annunciato l'anno scorso un piano di invio di 750.000 insegnanti, è tantissimo, 750.000 insegnanti nei prossimi 5 anni. Dove? Per insegnare in Asia, in India devono recuperare, no, un po' di terreno, e in Cina. Quindi ecco, io starei attento quando si parla, senza considerare, e qui concludo, i vantaggi simbolici, perché a mio avviso è molto ingenuo credere che esista un inglese globale, internazionale, che ormai è affrancato da ogni proprietario. Non è così, infatti la maggior parte delle famiglie cosa fanno? Mandano i figli nel Regno Unito, in America, a studiare l'inglese. Chiaro. Parlato là, non lo si manda a studiare in Polonia. Quindi secondo me questo non va dimenticato. O in Olanda. In Olanda, dove peraltro, attenzione, perché in Olanda iniziano a studiare inglese a 10 anni, mentre da noi si inizia a 6. Esatto, in si inizia anche prima in Italia, e la modalità, dell'insegnamento e i risultati che sono decisamente diversi, l'esposizione alle lingue. Gazzola, non è un'ultima cosa, perché lei rimarrà con noi fino alla fine, quindi perfetto. Non si preoccupi, professore. E vorremmo segnalare alcune delle osservazioni invece dei nostri ascoltatori, che dicono: perché parlare sempre soltanto di inglese? E proprio questo ci siamo chiesti oggi. Ci sono tantissime realtà bilingui anche all'interno, per esempio, delle nostre scuole. La possibilità di essere esposti a una seconda, a una terza lingua. E quando l'inglese sarà una competenza data per scontata tra 20 anni, lo diceva in maniera un po' apocalittica uno degli ascoltatori, però è così, si darà per scontato anche nel mercato del lavoro, che chiunque conosca l'inglese. Quello che invece farà la differenza anche a livello di professione sarà la conoscenza di una terza, di una quarta lingua. Eppure non solo gli italiani sembrano non notare questa possibilità che viene offerta dal fatto di avere in casa degli insegnanti potenziali, ma addirittura i genitori che invocano la conoscenza dell'inglese per i bambini anche in età prescolare sono preoccupatissimi a volte della presenza in aula di bambini che l'italiano lo masticano appena, almeno quando arrivano. Perché? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? 47 minuti dopo le 8, al microfono Irene Zerbini. Dicevamo l'approccio un po' schizofrenico dell'Italia e degli italiani. Tutto ciò che è inglese è benvenuto, nessun insegnante educatore penserebbe mai di dire a un genitore anglofono di parlare italiano a casa, perché considera questo caso di bilinguismo una ricchezza per il bambino e per la classe. Ma se il non italofono, anziché essere inglese o francese, perché anche quello è ben accettato, è marocchino, cinese, indiano, naturalmente al neoarrivato si consigliano corsi intensivi di italiano e si suggerisce alla famiglia di parlargli solo in quella lingua. Ci sono esperimenti però interessanti che vanno in controtendenza. Uno è senza dubbio quello realizzato dagli insegnanti delle scuole elementari di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Ringrazio una delle maestre oggi qui con noi. Buongiorno Agnese Vezzani. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti. E cosa avete fatto? Voi. Ecco, a Novellara noi abbiamo un'alta percentuale di bambini provenienti da altre culture e abbiamo cercato di realizzare alcune esperienze per valorizzare la lingua madre dei bambini. Per esempio, la nostra mediatrice indiana è entrata in alcune classi e ha provato a raccontare una storia in lingua Punjabi. Per una volta quindi i bambini indiani e pakistani hanno sentito parlare a scuola nella loro lingua e i bambini italofoni hanno potuto provare che cosa vuol dire ascoltare per 10 minuti una lingua che non comprendevano assolutamente, e quindi a loro sembrava un tempo lunghissimo Loro stessi, i bimbi italofoni, hanno parlato anche della maggiore difficoltà e del maggiore impegno che ci vuole a stare attenti. E quindi avete fatto questa esperienza per valorizzare la lingua madre dei bambini, e così che si sentissero accettati, integrati, perché poi si parla di lingua, in realtà il discorso va di pari passo con la questione dell'identità, dell'accettazione. Certo, io confermo, Irene, i genitori italiani spesso sono preoccupati che il programma scolastico dei loro figli sia rallentato perché ci sono in classe magari molti bambini stranieri. Di fatto non è così, cioè i libri sono tutti in italiano, l'insegnante parla italiano, i sussidi che utilizziamo sono pensati per un utilizzo da parte di italofoni, quindi i programmi tra l'altro sono chiari e le verifiche tendono ad essere strutturate per classi parallele, dunque la difficoltà maggiore la vive assolutamente chi arriva. Cioè il bambino straniero e non certo il bambino italiano, che anzi si trova a confrontarsi con non solo lingue ma culture diverse, questo non può che provocare un arricchimento. Michele da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono un padre di due figli, il grande ha 3 anni e il piccolo ne ha invece 1, e anche per questioni logistiche abbiamo optato io e mia moglie per iscrivere i piccoli a un asilo privato a Bologna, dove frequenteranno delle classi in cui la lingua sarà l'inglese e ci sarà poi la possibilità di scegliere e optare per altre lingue nel corso degli anni. Questa scuola li potrebbe portare fino alla prima superiore, quindi passare sia le elementari che le medie, con lezioni in lingua inglese su comunque testi e indirizzi italiani di studio. È riconosciuta come scuola. Volevo sapere e conoscere quindi un vostro parere in merito a questa scelta e conoscere anche un vostro parere in merito alle eventuali opportunità e criticità di questa nostra scelta. Grazie Michele. Come vedete, molti genitori compiono queste scelte e poi naturalmente si fanno delle domande, perché in realtà non è una via così collaudata, soprattutto in Italia. Ma giriamo la domanda a Gabriele Pallotti, al professore, al linguista, oggi nostro ospite. Sì. No, sicuramente è una scelta valida, tra l'altro ricordiamo che è una scelta che le famiglie che potevano permettercelo hanno compiuto per secoli, insomma, cioè per secoli, e le famiglie colte, più agiate e così via, facevano educare i propri figli da precettori, da istitutori, istitutrici, parlanti altre lingue, insomma, quindi l'istitutrice francese o inglese o tedesca, a seconda della scelta della famiglia, era una realtà, insomma, quindi è una cosa che da secoli si sa, proprio perché quando i bambini sono molto piccoli, sono in un'età che viene chiamata periodo critico, cioè un periodo critico particolarmente vantaggioso, ecco, per Pallotti, deve dunque questa considerazione essere inglobata dalla didattica, diciamo così, della scuola pubblica, o altrimenti se è consolidato e assodato che il bilinguismo fa bene in età prescolare si apprende ancora meglio una seconda e una terza lingua, deve rimanere una prerogativa di chi se lo può permettere, come succede a New York? Ormai le famiglie benestanti assumono la tata che parli solo cinese ai propri figli, ci sono questi asili, poi l'ha sentito anche dal nostro ascoltatore, privati, che però non tutti si possono permettere, in cui i bambini italiani ricevono questo tipo di vantaggio, perché comunque poi si traduce anche in un vantaggio. Se è così importante, perché non allargarlo a tutti allora? Perché costa, che costa molto. Cioè, chiaramente se noi dovessimo avere legioni... Ma quanto costa non farlo, sul lungo termine? Si può fare cominciando più tardi, cioè è chiaro che cominciare molto piccoli con un bagno totale, un'immersione totale è una condizione ideale, no? Però se uno fa un po' un conto di costi-benefici, anche iniziare relativamente tardi, come si ricordava prima, anche a 10 anni, no? Però poi con una scuola che funziona, una buona scuola, dei buoni insegnanti di lingue preparati e così via, e non è che non si impari, perché appunto gli olandesi, i tedeschi, che non è che sono immersi nella scuola inglese dalla nascita, esatto, o dai 2 anni, comunque lo parlano bene. È vero che l'inglese è una lingua germanica, quindi relativamente affine a olandese e tedesco, però effettivamente non è nemmeno ma è tanto proprio la modalità d'accesso diversa, non tanto libri di grammatica, ci siamo soffermati su questo anche in precedenti interviste, ma ascolto della lingua, immersione nella lingua, film senza doppiaggio e con sottotitoli e nessun blocco mentale dovuto appunto alla scomposizione grammaticale che a volte viene imposta dagli insegnanti in Italia. Paolo da Bolzano, buongiorno. Buongiorno. Una realtà importante è quella di Bolzano. Una realtà che io ho trovato. Io sono emiliano, mi sono laureato a Bologna una ventina d'anni fa, poi per varie vicissitudini sono arrivato a Bolzano. Devo dire che conosco molti bambini bilingui, perché genitori, da noi si dice misti lingui quasi, c'è il gruppo linguistico italiano e quello tedesco. Sì. E quindi bambini che parlano perfettamente a 5-6 anni. Chiaro. Almeno due lingue. Almeno, esatto. Sì. Io, pur essendo laureato, ho avuto una formazione molto molto scarsa nelle lingue, quindi francese e inglese li parlo comunque male. Devo dire che mia figlia, già a 9 anni, ha dei valori in più in queste venga al punto perché abbiamo poco tempo, scusi Paolo. La vuole chiedere realmente quella di avere un metodo che funzioni e avere la consapevolezza che non è una lingua da studiare, non è una materia scolastica, ma è un qualcosa che serve realmente sempre nel futuro. E può essere anche divertente imparare. Grazie per aver sottolineato ancora una volta la questione del metodo che fa la differenza. Ora, ci sono dei timori anche sul bilinguismo. E nonostante sembri cosa del passato, non è così, perché molti ce lo sottolineano anche con gli sms al 349-238-6666, ci dicono attenzione, può bloccare l'arresto, può arrestare lo sviluppo dell'italiano, attenzione, non fateli iniziare troppo presto. E quando però si parla di inglese, molti accantonano ogni timore. Abbiamo forse una sudditanza psicologica verso l'inglese, Michele Gazzola? Sì, io penso che la questione effettivamente vada inserita di nuovo in un contesto di fondo, cioè oltre a sapere come si insegnano le lingue, cioè iniziare più o meno presto, ricordiamo che qui in Svizzera le persone hanno delle competenze linguistiche migliori in media di quelle italiane, ma iniziano anche loro abbastanza tardi nella scuola, quindi di nuovo una questione di metodo, ma io non vorrei che si entrasse in una logica che mando mio figlio nell'asilo nido in inglese perché questa è la lingua, l'unica lingua che conta e l'unica lingua che conterà di più del domani, cioè se l'insegnamento di una lingua straniera diventa sostitutivo rispetto a in qualche modo l'insegnamento della lingua locale, nazionale in questo caso, lì vi è un problema effettivamente di psicologia sociale che va affrontato tramite delle politiche adeguate, nel senso che se l'apprendimento della lingua più importante, almeno nel sistema scolastico italiano, l'inglese oggi, diventa oggi un aumento delle competenze linguistiche medie della popolazione, un pretesto per ridurre un domani l'utilizzo dell'italiano nelle sedi universitarie, nelle sedi internazionali, ecco, in questo senso. A quel punto l'Italia si sta dando la zappa sui piedi. Sì, perché diventerà sempre più difficile, se l'italiano diventa sempre meno utile e l'inglese sempre più importante, il numero di persone che sarà costretta a mandare i figli fin dai primi anni di nascita a studiare questa lingua crescerà. È un po' un processo come che lei ha ricordato in diversi articoli. Mi si chiede come faccio a dire che sia un arricchimento la presenza degli stranieri. Non è certo un'opinione, ma è un'esperienza consolidata, per esempio in Canada. Io ho vissuto 13 anni in Canada, i miei figli sono trilingui e ogni seconda lingua, incluso l'italiano, è considerata una ricchezza, per cui gli insegnanti non solo immergono, diciamo così, i bambini nell'inglese o nel francese a seconda delle province, ma fanno ricordare agli alunni presenti in classe come si dice una parola in urdu, in hindi, in polacco, in italiano, in maniera tale che il bambino possa condividere il proprio patrimonio e si senta accettato. E materia per discutere ce n'è, si potrebbe approfondire ulteriormente, purtroppo il tempo stringe, ci fermiamo per ora. Vi ricordo, potete continuare a votare il nostro sondaggio sul sito www.radio24.it. grazie ai nostri ospiti, a Gabriele Pallotti, Michele Gazzola, Agnese Vezzani, a tutti voi che ci avete seguito. Da Irene Zerbini, buona giornata.